I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Cosa ci dice il record toccato dall'area euro nelle esportazioni nel 2014? Ci dice sostanzialmente che il problema dell'area euro stessa, come dimostra anche lo scontro, il braccio di ferro in corso sulla Grecia, è un problema di consumi interni. Nel 2014, infatti, i paesi che aderiscono alla moneta unica hanno toccato complessivamente un nuovo record nelle esportazioni e soprattutto nel saldo tra quanto viene esportato e quanto viene importato. C'è un attivo che ha toccato la cifra, appunto, record di 195 miliardi di euro. L'anno prima, nel 2013, fu di 152 miliardi. Siamo riusciti quindi come europei a migliorare di oltre 30 miliardi la differenza tra quanto esportiamo e quanto importiamo, nonostante sia crollato, come immaginabile, l'export verso la Russia, con una perdita di 15 miliardi di euro. Il dato fa il paio con quanto sta emergendo in questi giorni da Milano, dove è in corso il salone più importante della calzatura italiana, il MICAM, e dove le prospettive sempre sul fronte esportazioni restano più che buone, anche qui nonostante la frenata russa. E allora forse è il caso di ricordare che, nonostante tutte le difficoltà dell'Europa, se aumenta il nostro saldo commerciale, se aumentano le esportazioni, se aumentano anche le esportazioni dei settori classici del Made in Italy, nonostante per la terza volta la Russia, forse il problema dei paesi che aderiscono all'euro non è tanto nella qualità e capacità di competere delle proprie imprese, quanto il crollo verticale che hanno registrato i consumi di molti cittadini che in portafoglio hanno l'euro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Con il decreto legge mille proroghe, che proprio in queste ore è in votazione alla Camera, arrivano due grandi novità per le giovani partite IVA, sia professionisti sia titolari di attività artigianali e commerciali. La prima novità riguarda la possibilità di scegliere anche per il 2015 il regime fiscale agevolato con tassazione al 5%. Le nuove attività, quindi, per il 2015 potranno optare tra questo regime e quello nuovo introdotto con la legge di stabilità, che aveva però l'aliquota al 15% ed era stato molto contestato dal popolo delle partite IVA perché è decisamente meno conveniente del precedente. Contemporaneamente, sempre nel mille proroghe, viene anche congelato l'aumento al 30% dei contributi previdenziali per le partite IVA iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS. Sappiamo che il mondo delle partite IVA è stato molto molto colpito dalla crisi e sappiamo che merita un'attenzione decisamente più importante da parte del governo. I due interventi inseriti nel mille proroghe sono positivi, ma deve anche essere chiaro che sono solo una soluzione ponte per consentire al governo di rivedere, come più volte ha promesso lo stesso presidente del Consiglio Matteo Renzi, il regime di tassazione delle partite IVA. Si tratta di un passaggio importante che deve essere fatto avendo ben presente che il fisco e la previdenza sono ingombranti per tutti, ma che per i giovani che avviano una nuova attività diventano spesso un ostacolo insormontabile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.